Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, benvenuti a tutti qui a Mebius. Incominciamo parlando di papiri salvati ad Ercolano dalla famosa eruzione del Vesuvio, che nascondono dei segreti. E poi in questa puntata conoscerete Pierre Rabhi, grande filosofo dell'agricoltura tradizionale. E poi chiudiamo parlando di infinito, del concetto di infinito in matematica, perché esiste solo un infinito, esistono tanti infiniti, sono tutti uguali o tutti diversi? Già. Partiamo! Una volta, molto tempo fa, i libri erano papiri. Erano arrotolati, ecco. Però se restiamo anche al concetto generale di libro, anche come oggi, la domanda è: ma si può leggere senza aprirlo? Ecco. O comunque, passato così tanto tempo, diventa talmente fragile che a quel punto vuoi correre il rischio di aprirlo? Esatto. Ecco. Per i papiri che vanno srotolati, che magari possono essere lunghi anche 10 metri, il problema può diventare veramente insormontabile se è meccanico, se è di srotolamento. Parliamo. E se lo sono posti i ricercatori del CNR. Esatto, abbiamo qui uno di loro, Antonio Lamarra. Buonasera Lamarra. Buonasera a lei. Direttore Iliesi CNR. L'Iliesi è l'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee. Senta Lamarra, allora voi avete lavorato su dei papiri, quindi dei libri vecchissimi. Quanto vecchi? I papiri di cui parliamo, i papiri ritrovati ad Ercolano, risalgono al primo secolo avanti Cristo. Quindi più di 2000 anni. Però. E ne avete trovati parecchi, perché si parla di 1800 rotoli. Non li avete trovati voi? Ecco, no, questo è da specificare. Ecco, questo va, va chiarito. I papiri, l'esistenza dei papiri a Ercolano è ben nota dalla metà del XVIII secolo, certo, quando iniziarono gli scavi sotto il patrocinio della corona dei Borbone alla metà del Settecento, e in effetti ne sono stati repertoriati un po' più di 1800, ce ne sono alcune decine non inventariati, ma questo è l'ordine di grandezza. Ce ne sono ancora una ventina sparsi per l'Europa, ma quasi tutti si trovano attualmente alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli. Quindi è un patrimonio di un valore immenso. E sono stati, diciamo, salvati anche in qualche modo, sono quelli che si sono preservati dall'eruzione del Vesuvio, insomma, quindi riportano anche una fragilità di questo tipo, insomma, sono sopravvissuti. È esattamente come dice, paradossalmente l'eruzione del 79 dopo Cristo del Vesuvio in qualche modo li ha salvati, per così dire, ma in realtà, come è facile immaginare, si tratta di papiri semicarbonizzati per ovvi motivi, dovuti appunto all'eruzione del vulcano. Noi abbiamo però, qui, sia pure in questo stato, sono giunti fino a noi, fino a quando appunto, scavando nella zona di Ercolano, si è trovata la famosa Villa dei Pisoni, chiamata appunto anche Villa dei Papiri. Qui noi abbiamo un'immagine che i nostri ascoltatori vedranno sul blog, e beh, certo, c'è un papiro che è diventato un po' scartocciato, proprio, ecco, micidiale. Quindi l'idea di aprirlo mi rimanda immediatamente a un evento distruttivo, e questa è la genialità della ricerca. Perché in realtà noi vogliamo sapere che cosa c'è dentro. Che cosa c'è scritto? Come si fa, Lamarra? Dunque, naturalmente va precisato che in alcuni casi, altrimenti fin qui non sapremo nulla di questi papiri, e invece in alcuni casi si sono potute escogitare delle tecniche meccaniche più o meno sofisticate per aprirli e srotolarli, come quelli diceva. Messi meglio, però diciamo. Ce ne sono un certo numero che effettivamente non consentono nessun approccio di tipo fisico-meccanico, e quindi sono virtualmente persi per la conoscenza. E qui parte invece il campo di azione di alcune indagini che specialmente in ambito CNR si sono sviluppate in questi ultimi anni, tra cui la nostra, per cui abbiamo cercato di sviluppare delle metodiche che consentissero di andare a guardare dentro i papiri arrotolati e in così cattive condizioni senza toccarli. Quali sono queste usate metodiche? Usate i raggi X, no? E mano a mano andate giù strato per strato. Come si fa? Sì, di fatto sì, si è usata una metodica che normalmente si usa in campo medico, come si capirà subito, perché abbiamo utilizzato una tomografia a contrasto di fase a raggi X, in particolare generata da un acceleratore che produce luce di sincrotrone. Una specie di TAC? Una specie di TAC, si può dire sì, si può dire proprio che è una specie di TAC, infatti come ricordavo appartiene alla stessa famiglia di metodiche che si usano in campo medico. Mm, sì. E voi potete avanzare strato per strato con differenze di parti di millimetro, quindi riuscite a vedere tutti gli avvolgimenti. Naturalmente è un po' più complicato di così, immagino. Questo è lo scopo che si vuole raggiungere, perché in effetti diciamo, una proprietà importante di questo tipo di applicazione è che la luce di sincrotrone permette di produrre immagini tridimensionali ad alta definizione della struttura interna dell'oggetto che si sta indagando. Detto questo, il problema più difficile fin qui da risolvere nel caso dei papiri era esattamente questo, cioè di collocare esattamente quello che si poteva vedere sull'ipotetico foglio srotolato del papiro, cioè quello che in qualche maniera si poneva come problema era fare una sorta di svolgimento virtuale del papiro arrotolato, digitale. E mi lasci dire in molti casi non solo arrotolato ma anche ripiegato, un po' cartocciato, perché insomma ha subito violente ingiurie durante l'eruzione vulcanica. Però ce l'avete fatta. E noi siamo molto contenti di poter dire che effettivamente abbiamo fatto un passo avanti molto importante rispetto alla situazione attuale, perché proprio su questo punto abbiamo avuto dei progressi molto significativi e credo che veramente sia la prima volta che si riesce a ottenere una sorta di svolgimento, srotolamento virtuale del papiro. Ma state trovando qualche parola, qualche verbo, qualche frase? Che cosa c'è scritto? Perché giallo è questo, guardi, ovviamente. Esperienze precedenti erano riusciti già a individuare delle parole o parti di parole. Con la metodica messa a punto da noi, quello che si riesce a fare è un passo importante in avanti, perché si riescono a vedere, per così dire, a individuare porzioni di testo più ampie. La Mara ci tiene sulle spine. Che cosa c'è scritto in questi papiri? Ma la biblioteca di cui parliamo è l'unica biblioteca dell'antichità che in qualche maniera è giunta fino a noi. Era una biblioteca sostanzialmente di carattere filosofico, in particolare conteneva una quantità notevole di scritti riportabili soprattutto alla filosofia di Epicuro e alla filosofia storica, comunque dell'epoca diciamo nostra. Filosofia greca, insomma. Sì, filosofia greca, ma ci sono anche degli scritti latini, però fondamentalmente filosofia greca del periodo ellenistico, stoica ed epicurea. In particolare emerge la figura di un filosofo epicureo, Filodemo di Gadara, che probabilmente era il curatore di questa biblioteca. Voi l'avete fatto sui papiri di Ercolano, però in realtà si potrebbe applicare anche su altri papiri. Vabbè, quelli egiziani ormai sono arcinoti, però diciamo... Cioè, un metodo non distruttivo che può risolvere tanti problemi. Assolutamente, certo. Questa proprietà di essere non distruttivo naturalmente è preziosa e così come noi l'abbiamo applicata ai papiri ercolanesi è facile immaginare si possa applicare in situazioni o in circostanze abbastanza analoghe nel campo in generale dei beni culturali, cominciando dai libri antichi, talvolta anch'essi in situazioni di grande fragilità. Va bene, grazie Lamara, ci state ancora lavorando, quindi buon lavoro. La ringrazio molto. Buona ricerca, arrivederci. Dopo i papiri, ovviamente, il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nous avons choisi la sobriété. J'ai écrit un livre sur la sobriété heureuse, c'est-à-dire la voce che avete sentito, che adesso sfumiamo, è quella di Pierre Rabhi, personaggio, magari qualcuno di voi l'ha già sentito come personaggio, perché insomma comincia ad avere una sua certa notorietà, però di lui adesso parliamo, in modo che ve lo presentiamo, lo faccio con Carola Benedetto. Buonasera Benedetto. Buonasera, grazie. Co-regista di un documentario da cui è tratto appunto questo spezzone di voce, questo estratto di voce è un DVD che si può acquistare, adesso vi daremo delle indicazioni. È un DVD abbastanza singolare. Pier Rabhi, ecco, diciamo chi è Pier Rabhi, Carola. Pier Rabhi è un agricoltore, un po' il padre dell'agroecologia in Francia, è franco-algerino e ormai sono più di 40 anni che si occupa di queste tematiche, fondando un movimento che si chiama Movimento Colibri, che diciamo è molto sviluppato in Francia nelle aree francofone, di piccole realtà che in qualche modo si fanno portavoci di una rivoluzione agroecologica o di ecologia applicata non solo alla terra, ma proprio a una nuova, diciamo, armonia tra l'uomo e il cosmo, ecco. Sì, anche proprio l'agricoltura come un'attività in cui i comportamenti umani hanno un particolare significato, hanno una particolare dimensione. Potremmo assolutamente definire Pier Rabhi come uno degli iniziatori di questo filone che oggi ormai è piuttosto esteso, che è quello di un'agricoltura biologica, che però lui è riuscito a portare a un livello particolarmente estremo. Nel DVD ci sono varie interviste, ce n'è una anche con Vandana Shiva, che invece conosciamo molto di più e che appoggia questo tipo di direzione di ricerca e applicazione, ma ce n'è in particolare uno che mi sembra quanto mai significativo per vedere qual è l'approccio, insomma, di Rabhi e del suo gruppo. C'è una simpaticissima monaca che ha una capacità espressiva fantastica, che racconta di un'avventura assolutamente folle. Qual è? Guarda, sì, questa monaca è una monaca ortodossa, si chiama Madre Iosifia ed è del monastero ortodosso di Solane. Ci troviamo nel Gard, quindi nella Francia del Sud, poco distante da dove vive e ha cominciato a operare Rabhi. Queste monache si sono trasferite in quella zona negli anni 90 e per sostenere la propria comunità volevano fare dell'agricoltura, naturalmente agricoltura non biologica, insomma, non chimica. E tutte le persone che si interfacciavano con loro cercavano di dissuaderle in ogni modo, perché quella terra ormai era completamente bruciata, era una terra che non produceva più. Sì, sembra proprio un territorio carsico, e loro fanno anche vedere delle foto e chiunque diceva: ma che cosa volete coltivare qui? È del tutto impossibile. È folle e soprattutto, oltretutto, anzi, siete donne, per cui insomma, alla peggio questa è un'attività da uomini e da uomini che la vogliono praticare con prodotti chimici e anche con macchinari piuttosto pesanti, non adatti a voi, fate ostelleria, fate turismo più che altro. No, loro volevano fare gli agricoltori. Assolutamente sì, e lo volevano fare perché per loro ciò che è creazione deve essere la prima forma di tutela e in qualche modo di, diciamo, devozione. Per cui erano quasi senza speranza, fin tanto che un comune amico nel 92 ha detto: no, ma dovete incontrare Pier Rabhi. All'epoca questo Pier Rabhi era, dice la monaca, pressoché sconosciuto anche in Francia. Però lui ha fatto un sopralluogo alle terre e ha detto: intanto concimatele con il letame vaccino, insomma. E questo ha cambiato poi in grande la loro vita, la loro comunità. Oggi è una comunità che si autoalimenta. E è arrivata a produrre un vino premiato addirittura? È arrivata a produrre anche un vino premiato, sono piccole quantità naturalmente, non possiamo pensare naturalmente raggiungere tutta la Francia, però insomma lavorano molto nel documentario. Loro ci hanno regalato anche delle immagini in cui si vedono le monache che fanno la vendemmia. L'ho viste. E sono una comunità felice, funzionante, però il dato da cui partivamo appunto prima presentandolo è che davvero se c'è qualcuno in ascolto che ha un terreno disastroso e vuole coltivarci sopra, beh, insomma, non si disperi, perché è veramente sorprendente come queste metodologie di Rabhi riescano ad andare proprio a recuperare fertilità dove c'è quasi un deserto. Sì, loro hanno lavorato su questo letame. In realtà loro non avevano il gran letame di mucca, perché era una zona che non ne aveva molta, però l'hanno unita con quella dei cavalli, che invece sono molti, e poi hanno unito con questo l'utilizzo delle leguminose. Quindi insomma sono anche accorgimenti pratici, ma dice che la terra rapidamente, insomma prendiamo sempre con le pinze questo rapidamente, si è ripopolata di lombrichi e si è rianimata, riempita di ossigeno, e quindi è stata di nuovo una terra produttiva. Esatto. Pensate addirittura che questa era veramente prossima alla desertificazione, perché non aveva più nemmeno la vita piccola animale, no, dei lombrichi, che è un po' quella di base della terra. Carola, dove si può trovare questo DVD? Allora, nelle librerie indipendenti di tutta Italia si può anche ordinare online andando sul sito del nostro distributore che si chiama Satellite Libri. Si mette la parola PRB o PRB il mio corpo e la terra e pian piano si arriva sulla pagina e si può ordinare. Satellite Libri, www.satellitelibri.it. Oppure sul sito del Gruppo del Cerchio, che è il produttore, www.gruppodelcerchio.it, e poi tutte le informazioni si trovano. Va bene, Carola Benedetto, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Archimede aveva un sacco di tempo libero, la teoria degli insiemi e il concetto di infinito. Questo avrete capito che è un sottotitolo, e quindi Archimede aveva un sacco di tempo libero, è invece il titolo di un testo edito da Sirone Editore e scritto da Bruno Codenotti e illustrato da Claudia Flandoli. Bruno Codenotti è qui con noi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, lei buonasera. È un ricercatore dell'Istituto Informatica Telematica del CNR di Pisa, quindi fa ricerca in questo centro che è tra l'altro uno di eccellenza italiano, però poi va in giro per le scuole incontrando ragazzi e ragazze delle prime tre anni delle superiori, ai quali fa delle domande, poi dà delle spiegazioni ovviamente sulla teoria degli insiemi, e una delle cose più strane è... Sì, ci ha colpito questa cosa, ma perché a Roma ci devono essere per forza due persone che hanno in testa lo stesso numero di capelli? Sì, è una cosa che colpisce e che in realtà nasce da un principio che governa il finito, ed è un principio che nasce da un vecchio assioma di Euclide che dice che il tutto è maggiore della parte. Da questo discende un principio che ci fa vedere come se abbiamo, non so, cinque piccioni che devono entrare in quattro buche, ci dovrà essere necessariamente una buca che ha almeno due piccioni. Ecco, utilizzando questo principio, che sembra dire una banalità, in realtà si dimostrano cose come in una città come Roma devono necessariamente esserci due persone non calve con lo stesso numero di capelli. Nel capitolo del libro si fa vedere questo esempio e si spiega il perché. Ah, lei qui non ce lo spiega, è un po' lungo da spiegare. Volete ve lo spiego? Proviamo? Un minutino, se volete. Sì, proviamo. Dai, proviamo. Allora, l'idea di fondo è questa: a Roma c'è più di 1 milione di abitanti. Il numero di capelli che una persona ha in testa è certamente meno di 1 milione. Okay. Se allora immaginiamo un certo numero di buche in cui si debbano buttare tutti gli abitanti di Roma, essendo gli abitanti più di 1 milione, e se a ogni buca associamo abitanti con lo stesso numero di capelli, essendo le buche meno degli abitanti, per forza ce ne dovrà essere una con almeno 2 abitanti, e questi, per come abbiamo costruito le buche, devono avere lo stesso numero di capelli. Ci ha dato il sapore della cosa, ma viene meglio sia leggendolo sul suo libro che con un foglio e una matita, guardando anche i disegni e che guardando ci sono. Anche questi bei disegni fatti da Claudia Flandoli. Dunque, lei è un predicatore del senso dell'infinito, che è uno dei concetti più strambi, più affascinanti, meno anche digeribili della matematica. C'erano addirittura dei matematici importanti come Gauss che diceva che non si doveva parlare dell'infinito, non era una roba che c'entrasse con la matematica. Senza dubbio, e questa è una lunga onda, nel senso che se partiamo da Pitagora e dalla scuola pitagorica, l'infinito era aborrito, era considerato qualcosa di non controllabile e si privilegiavano i numeri, i rapporti tra i numeri, e c'era il desiderio di cercare di descrivere l'universo come proporzioni tra numeri. La scoperta dell'irrazionalità di radice di 2, la diagonale di un quadrato che abbia come lato 1, fu uno shock per i pitagorici, al punto che, e ne parliamo nel libro, un poveraccio di nome Ippaso da Metaponto ne fece le spese, nel senso che fu buttato a mare, così ci dice la leggenda, per aver divulgato questa verità terribile, cioè la presenza dell'irrazionalità e quindi di infinite cifre che servono per rappresentare certe proporzioni, che la scuola di Pitagora voleva tenere nascosta e segreta. Da allora nella matematica il rapporto con l'infinito è stato molto complicato, con l'idea che paradossalmente bisognava usarlo per ragioni pratiche, ma nessuno voleva maneggiarlo direttamente. La frase che lei ha detto di Gauss viene solo pochi decenni prima rispetto alle scoperte di cui parliamo nel libro, che hanno portato l'infinito all'attenzione concreta della matematica. Lei dice infinito, c'è solo un infinito, ci sono tanti infiniti, ci sono infiniti più grandi di altri infiniti, com'è? È ancora più complicato. È la domanda centrale che affrontiamo nel libro. Ecco, noi possiamo intanto immaginare infiniti diversi intuitivamente, quando pensiamo all'infinito dei numeri interi positivi, 1, 2, 3, 4, eccetera, rispetto ad altre forme di infinito che si richiamano di più alla geometria, come l'infinità dei punti in un segmento. Ecco, questa sarà la chiave per far vedere che esistono almeno due tipi di infiniti, facendo vedere che l'infinità dei punti è maggiore, tra virgolette maggiore, dell'infinità dei numeri interi. Ecco, questo sarà poi il punto di partenza per dimostrare che in realtà l'infinito, altro che essere indifferenziato, è formato da infiniti infiniti diversi. Perché lei dice prendiamo i numeri 1, 2, 3, 4, 5 che sono infiniti, li mettiamo, poi sotto abbiamo invece un segmentino che ha infiniti punti infinitamente vicini, questo qui è più grande dell'altro. E poi già quelli sono infiniti, sono due infiniti diversi. Esatto, però per dimostrarlo a Cantor, che è il protagonista di tutta questa storia, un matematico tedesco, ci sono voluti 20 anni di lavoro. Per 12 anni Cantor lavorò a cercare di dimostrare che tutti gli infiniti sono equivalenti in un modo o nell'altro. Il 13° anno trovò un controesempio proprio legato a questa differenza tra, diciamo, il segmento, i punti del segmento e i numeri interi positivi. Beh, insomma, è un bel concetto nel quale ci si perde completamente, poi è inevitabile che porti all'infinità dell'universo, che è uno dei misteri più profondi e probabilmente insolubili. Ricordo il libro, allora, Bruno Codenotti, che è stato qui con noi, Archimede aveva un sacco di tempo libero, edito da Sironi. Sì, lei va in giro, si rivolge ai ragazzi delle superiori, però questo è un libro che va benissimo per tutti. Anche per gli adulti. Sì, l'idea è che è un libro che chiunque, se abbia un po' di curiosità scientifica, può leggere, accessibile a tutti. C'è, come avete detto, l'aiuto che danno i fumetti di Claudia Flandoli, ma c'è anche questo tentativo di rendere intuitive tutta una serie di cose e di concetti. Tra l'altro si usano riferimenti anche di tipo letterario e filosofico per allargare un po' la questione e dare suggestioni che vengono anche da altre discipline. E poi non dimentichiamoci che ne stiamo parlando a Möbius, da cui prende appunto anche il nome del nastro di Möbius, che altro non è che il simbolo di infinito, quindi e qua chiudiamo, come dire, questo cerchio infinito. Sì. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. È vero, Möbius ha il simbolo dell'infinito, però che strana roba, finiamo con l'infinito. Pensa se andassimo avanti all'infinito, poveri ascoltatori. Sì. Per noi sarebbe forse anche interessante, per loro non lo so. Una trasmissione che non finisce mai. Buona settimana a tutti e a tutte. A tutte, una settimana infinita.